Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Se siete qui che ci ascoltate, vuol dire che sapete che il Mebius va in onda alle 21 e non più alle 20. Ci avete aspettato, vero? Senz'altro. Oh, qui una notizia clamorosa: c'è uno studio fotografico nello spazio, fuori dalla galassia. Una notizia galattica, mi viene da dire. Assolutamente galattica. Adesso i titoli e poi incominciamo proprio da qui. Domanda galattica questa settimana. Vincenzo ci chiede: come sono riusciti a fotografare la nostra galassia classificandola come spirale, se ci siamo dentro? Una nuova creatura marina nasce dai laboratori di robotica del Sant'Anna di Pisa. Si chiama Poseidrone e possiede tentacoli super efficienti. Rispondiamo a tre domande fondamentali sull'intricata vicenda degli OGM. La mia voce è un'app per pazienti colpiti da malattie che compromettono irreparabilmente la capacità di parola. Dunque, l'abbiamo introdotta come notizia galattica. In realtà è una domanda galattica. Sì, sì. Che ci arriva dai nostri ascoltatori. Ricordiamo velocemente i contatti, che sono sempre gli stessi. Abbiamo cambiato orario, ma i contatti sono gli stessi. moebius@radio24.it per mandarci le vostre domande di scienza. Poi che cosa abbiamo su Facebook? Su Facebook, ovviamente, fate mi piace su Moebius Scienza. Okay. E poi Chip Chip, che è Twitter. Moebius _, cioè trattino basso, online. Eccoci. Vabbè, oh, non perdiamo tempo, perché la qui... parola, quindi, la parola al galattico Vincenzo. Buonasera, noi sappiamo che la nostra galassia è a spirale, ma come siamo riusciti a fotografarla se ci siamo dentro? E qui non ci può essere che una risposta, cioè c'è qualcuno che fa le foto da fuori. Da fuori, e ce le manda. E ce le manda. Okay, e ce le manda in continuazione. Chiediamo conferma ad un astrofisico, forse meglio. Allora, Corrado Lamberti è qui con noi. Buonasera Lamberti. Buonasera a voi. In realtà ci diamo del tu, perché tu sei un astrofisico, però insomma sei grandissimo divulgatore da tanti anni di cose di scienza. Come si chiama questo studio fotografico che sta fuori dalla galassia? Non c'è, ho la sensazione che non ci sia. Direi anch'io. E quindi? Nessuno ha potuto mai fotografare dall'esterno la nostra galassia, perché ci siamo all'interno. Ci siamo dentro. Però sappiamo esattamente ormai com'è fatta, lo sappiamo già da almeno 60 anni. Sappiamo qual è la sua forma, sappiamo quali sono le sue dimensioni. Come abbiamo fatto a scoprirlo? In cielo esistono due grandi categorie di galassie, le spirali e le ellittiche. Le ellittiche sono dei batuffoli grosso modo tondeggianti, sferici diciamo. Le spirali invece hanno la forma che si sa, piuttosto appiattita, con dei bracci che ruotano intorno al centro. Si trattava di capire la nostra galassia a quale delle due categorie appartenesse. Non siamo andati per esclusione. Ma la risposta la si può dare anche a occhio nudo. Basta osservare la Via Lattea in una bella notte estiva o invernale e ci si accorgerà che si tratta di una striscia relativamente sottile di stelle che attraversa il cielo da orizzonte ad orizzonte. Mai in un punto, intorno alla costellazione del Sagittario, questa striscia si ingrossa. Allora, abbiamo capito in questo modo che noi siamo una specie di uovo al tegamino. Ecco. Cioè? Ecco. Cioè, quando si fa l'uovo al tegamino cosa succede? L'albume si spande sottile per tutto il pentolino. E il tuorlo invece rimane al centro. Resta, ecco. Ingrossato, no? Verso il centro. E noi siamo una specie di pulce che è rimasta imprigionata nell'albume all'interno verso la parte esterna, perché noi siamo piuttosto alla periferia della galassia, e cerca di guardarsi attorno a vedere come fate. E cosa vede? Vede dappertutto intorno a sé una striscia abbastanza sottile che è l'albume, e poi in un certo punto vede questo ingrossamento, questo rigonfiamento, e si tratta del tuorlo. Il tuorlo di questo uovo è rappresentato dalla nostra Via Lattea o no? Sì, è la parte centrale della nostra Via Lattea, che presenta questo rigonfiamento. Tra l'altro questo paragone funziona abbastanza bene anche per via del colore, perché il rigonfiamento centrale della galassia è costituito da stelle per lo più rossastre, mentre invece il disco galattico è costituito da stelle più giovani, più quindi chiare, più azzurrine. E noi ci siamo accorti che siamo fatti così, come una galassia spirale, guardando la vicina galassia spirale di Andromeda. È stato un po' là per... che paragonando come siamo fatti noi e vedendo lei, abbiamo capito che è stato là che abbiamo riconosciuto innanzitutto che c'erano due popolazioni diverse di stelle, le stelle rosse del rigonfiamento centrale e le stelle azzurre, blu, supergiganti blu in tutto il disco. Allora, con i telescopi ancora negli anni 40 ci siamo accorti che il disco galattico è ricolmo di supergiganti blu. Siamo andati a classificarli, abbiamo cercato di misurare la loro distanza e, così come vedevamo nella galassia di Andromeda, che le supergiganti blu erano presenti soprattutto nei bracci di spirale, erano cioè dei traccianti dei bracci di spirale, così siamo riusciti a ricostruire la struttura spirale della nostra galassia. Poi le cose sono andate avanti. Nei primi anni 50 la radioastronomia ci ha convinto del tutto di questo, perché con la radioastronomia siamo riusciti a scoprire anche nubi di gas freddo distribuito soprattutto lungo i bracci, e di queste nubi siamo riusciti a misurare anche la velocità. Così ci siamo accorti non soltanto che la nostra galassia è una spirale, non soltanto che ha circa 5 bracci ben identificati, ma che ha anche una rotazione differenziale, cioè che verso il centro le stelle, gli ammassi stellari, le nubi di gas ruotano attorno al centro molto più velocemente che non verso la periferia. Corrado, tu hai appena citato poco fa dicendo che la prova del 9 ce l'ha data la radioastronomia. Vogliamo dire solo due parole, ricordando che in questi giorni è stato inaugurato il Sardinia Radio Telescope, che è un radiotelescopio molto importante, forse il più grosso europeo, se non erro, di questo tipo. Quindi se ci dici proprio due parole, tanto torneremo a parlarne nelle prossime puntate. Vogliamo raccontare di più. Che differenza c'è, insomma, tra la radioastronomia e l'astronomia tradizionale? Per dirne una, con l'astronomia tradizionale non si riesce a vedere la zona del centro galattico. Perché? Perché c'è un mare di gas, di idrogeno soprattutto, che si comporta come una sorta di nebbiolina che non ci consente di vedere lontano. È come in una giornata di nebbia, noi usciamo sul balcone, ci guardiamo intorno, vediamo 100 metri sulla sinistra, sulla destra, davanti e dietro, ma non vediamo più in là perché la nebbia non ci consente di vedere più in là. Eppure magari siamo all'interno di una grossa città, ma non riusciamo a vedere il centro per questo motivo. Perché quelle che captiamo sono onde radio. Con le onde ottiche non riusciamo a vedere più in là, diciamo, di 10-15 mila anni luce. Invece le onde radio riescono a penetrare anche attraverso questa nebbia e ci fanno vedere cosa sta più lontano. E quindi siamo riusciti a scoprire in questo modo la struttura spirale della Via Lattea. Sappiamo anche abbastanza esattamente dove siamo noi. La Terra, che è un po', no, spostata, è a metà tra la fine e il centro, no? Sì, circa, un po' più verso l'esterno. E sappiamo che apparteniamo ad uno dei bracci di spirale, il braccio di Orione. Sappiamo che più all'esterno di noi c'è il braccio del Perseo, più all'esterno ancora c'è il braccio del Cigno, mentre invece più all'interno c'è il braccio del Sagittario e il braccio di Croce Scudo. Vabbè, però scusa, niente esclude che ci sia uno studio fotografico. Adesso non riusciamo ad avere informazioni. Però sarebbe un'ulteriore prova. Probabilmente su M31 c'è qualcuno che scatta le foto della nostra galassia e poi cerca di capire come è fatta M31 guardando la nostra. Esatto, giusto, potrebbe essere così. Prima o poi ci scambieremo le foto. Grazie Corrado. Grazie mille Corrado. Buona Buon giornata. Niente, ciao, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Anche agli scienziati ormai piace fare giochi di parole che devono essere, devo dire che sono anche abili. E poi è efficace, senz'altro efficace. Un nome così, dai, diciamolo. Allora, Poseidone, che cosa vi ricorda? Vabbè, Poseidone è la dea del mare. E Poseidrone? Poseidrone è una nuova creatura marina, però artificiale, un robot. col drone, perché in acqua si può come volare, che nasce dai laboratori di robotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che sappiamo essere appunto una scuola d'eccellenza in questo campo in Italia. E andiamo dalla product manager, cioè la mamma di Poseidrone, possiamo chiamarla così, ecco. Le va bene come definizione, Cecilia Laschi? Insomma, siete un po' in tanti. Non le piace, non essere la mamma di Poseidrone. Esatto, no, anche se ovviamente a noi piace. A voi piace. Perché un po' i genitori ci sentiamo, sì. È una vostra creatura, via. Cosa facciamo? Lo descriviamo, questo Poseidrone? Quanto è grande? Quanto pesa? Tanto, forse per descriverlo, la prima cosa da dire è che deriva da una ricerca precedente che ha visto lo studio, uno studio molto approfondito anche dal punto di vista biologico del polpo, il polpo comune, quello che siamo abituati a conoscere soprattutto in cucina. Ne parlammo qualche anno fa a Mebius, si chiamava Octopus. Il progetto Octopus. Sì, magari con un'estrema fantasia si chiamava Octopus, il progetto è appena terminato, però era un progetto molto più, se vogliamo, di ricerca di base, fondamentale, anche se queste definizioni non sono mai tanto corrette. Però diciamo lì proprio la sfida era provare a capire come funziona un polpo per vedere se è possibile in robotica arrivare alle stesse prestazioni, alle stesse proprio, è molto difficile, però qualcosa di simile almeno nel principio, cioè come fa un animale senza scheletro, quindi una qualsiasi diciamo agente senza scheletro, senza strutture fisse, ad applicare forze sull'ambiente, a fare manipolazione, a fare locomozione. Quindi problemi molto molto di base per la robotica. Io sono una robotica. Come dicevo, Octopus è finito, qualcosina abbiamo capito del polpo, qualcosina abbiamo realizzato dal punto di vista della robotica, e ora questo nuovo progetto prova ad applicarle realmente, a sfruttare questa conoscenza. Quindi, tornando alla descrizione, è fatto un po' come un polpo, assomiglia a un polpo. Ma quanto grande? Parte... Non grande come un polpo, però è più grande. No, più o meno è come un polpo dei nostri mari, l'Octopus vulgaris, che è tipico dei nostri mari. Ma sì, più o meno sono le stesse. Il peso, dimensioni. Ci dica quanto pesa questo marchingegno? Anche il peso più o meno non si allontana molto da quello dell'Octopus vulgaris, diciamo, anche se ovviamente ce ne sono di molte dimensioni, ma mi riferisco a un esempio adulto normale, quindi tra un chilo e due chili, diciamo. Tra un chilo e due chili. Vabbè, lo facevo più grande invece. Però allora fa un sacco di cose. Però ha dei tentacoli super efficienti, come quelli del polpo, come del resto. Del polpo. Soprattutto la cosa che a noi interessava già nel progetto Octopus e interessa anche adesso, che consideriamo la più innovativa e originale, è il fatto che sia tutto costruito con materiali, diciamo, morbidi. Noi con Octopus abbiamo lanciato quella che si chiama soft robotics, proprio ad indicare il materiale soft, quindi non ci sono di fatto strutture rigide all'interno del corpo, o insomma in minima parte. Un po' di circuiti, diciamo. E che materiale è questo molle? Ora, nel Poseidrone siamo andati su una soluzione tutta basata sul silicone. Che colore è? Color silicone. Nel senso che è un colorino bianco, diciamo, che dà sul bianco, volendo si può colorare comunque. Diceva che la grossa differenza tra il progetto precedente e questo è l'applicazione. Ecco, allora entriamo un po' nella parte di utilità. Che cosa serve un robot di questo genere? Allora, noi è venuta l'idea, facendo appunto Octopus, che nelle applicazioni marine il concetto di sfruttare queste capacità di manipolazione e locomozione con strutture soft potesse essere veramente molto molto potente. Quando facevamo Octopus non avevamo in mente una chiara applicazione, come dicevo prima, e una domanda frustrante per me, che mi facevate soprattutto voi giornalisti, era: sì, vabbè, ma perché volete fare ma che serve? E io dicevo: vedrete che poi quando l'avremo fatto, se ci riusciamo, ci verranno in mente molte applicazioni. E così è stato, in effetti ce ne sono tantissime, oltre a Poseidrone, anche in ambito biomedico, dove facciamo anche altri progetti di robotica marina, diciamo più tradizionale, dove cioè si sviluppano dei veicoli marini. La robotica marina attuale è questa, sono dei veicoli più o meno autonomi, che vanno sott'acqua, anche lì più o meno sott'acqua, nel senso di superficie o di grande profondità, e che svolgono compiti di monitoraggio. Però da cosa sono caratterizzati? Da dimensioni abbastanza, diciamo, grandi, e soprattutto dal fatto di essere dei veicoli rigidi, per cui non possono entrare in contatto con, non so, per esempio il fondale, la barriera corallina, la scogliera, oppure se vanno su manufatti come relitti o anche impianti, certo, sottomarini non possono entrare veramente in contatto, no? Perché c'è un rischio, diciamo, di danno reciproco tra il robot e queste cose. Invece, che deve esplorare. Invece, Poseidrone queste caratteristiche le avrebbe. Esatto, cioè, noi abbiamo detto, ma perché, visto che la robotica è riuscita a trovare queste soluzioni in software, non pensiamo di applicarle in mare, in ambito marino? E quindi come concetto è decisamente innovativo rispetto alla robotica marina esistente, perché è anche complementare, non è che si sostituisce, ma in qualche modo si aggiunge. Noi possiamo pensare di avere gli stessi veicoli che esistono, che sono molto efficienti, performanti, e la tecnologia già abbastanza consolidata, che magari si portano a bordo delle parti come Poseidrone, quindi dei piccoli robot che possono poi andare in esplorazione, che sono però completamente morbidi e quindi possono entrare in contatto con le cose da esplorare. Mm. Ripeto, prima fra tutti il fondale. Senta, volevo chiedere questo. Una caratteristica del polpo, quello vero, è che riesce a diventare piatto piatto e infilarsi in pochissimo spazio. Non dico che magari questo fa esattamente la stessa cosa, però la tendenza... Un pochino lo fa, nel senso che di nuovo i materiali sono morbidi, quindi noi abbiamo fatto delle piccole prove semplici, cioè mettevamo per esempio due oggetti grandi, il robot riesce a passare nel mezzo perché le braccia si flettono nel momento in cui c'è l'ostacolo, quindi vedi. Il compito finale che volevamo fare per dimostrare proprio le capacità di Poseidrone a fine progetto è proprio quello di farlo entrare all'interno di una cavità nella roccia, diciamo una specie di grotta sottomarina. Infatti mi stavo chiedendo se appunto entrando in questi afratti, in questi buchi delle rocce, che informazioni ci può dare, ad esempio ci può analizzare alcuni particolari parametri che invece non saremmo in grado di avere, oppure ad esempio potrebbe scoprire delle cavità, delle grotte. Quali sono poi le applicazioni? Ma allora, prima di tutto noi abbiamo pensato alla solita telecamera, quindi sicuramente ci facciamo mandare immagini. Monitoraggio. Sì, e questa diciamo c'è già sul primo prototipo, perché è la cosa diciamo più immediata e intuitiva da fare. Però l'idea è anche di mettere a bordo poi altri tipi di sensori. Sui robot diciamo tradizionali marini noi abbiamo anche fatto esperienza di utilizzo di sensori per il monitoraggio delle acque, quindi per rilevare la presenza di inquinanti per esempio, oppure anche semplicemente i parametri fisici dell'acqua. Potrebbe essere usato anche, ad esempio, noi abbiamo purtroppo recente il caso della Concordia, però in caso di incidenti marini, di qualche calamità che avviene in mare, potrebbe essere utilizzato ad esempio per il salvataggio di umani o comunque per l'esplorazione in questi casi? Purtroppo per esempio per l'individuazione delle salme, che è un problema difficilissimo perché i sommozzatori rischiano, è molto pericoloso. Esatto. Tremendamente. Esatto, devo dire, ora magari non voglio prendere il caso Concordia troppo come esempio, perché spero anche che siano casi decisamente molto molto rari, però sì, è un buon esempio, nel senso che appunto come suggeriva la ricerca delle vittime all'interno della Concordia non è stato possibile farla con i robot, c'era un robot ma stava all'esterno della nave del relitto, e all'interno sono dovuti ancora entrare sommozzatori in condizioni che insomma sappiamo non erano assolutamente piacevoli, oltre a tutti i rischi che c'erano. Quindi sì, è sicuramente un buonissimo esempio. Più, ecco, non chiamerei salvataggio, continuerei a chiamarlo esplorazione. Quindi in questo caso una ricerca. Com'è che si alimenta? Cioè che cos'è che lo muove? Che autonomia ha? Cosa ha? Batterie? Sì, l'idea è quella. Al momento, nel primissimo prototipo, che insomma è entrato in acqua veramente poche settimane fa, c'è ancora un cavo, quindi l'alimentazione è ancora esterna. Però l'idea è che poi sia autonomo e che utilizzi delle batterie. Quindi, come sappiamo tutti noi che facciamo robotica, le batterie sono sempre un po' un problema, perché ci danno dei limiti di autonomia, perché ci danno ingombro e peso che non sono mai aspetti positivi. Certo. Abbiamo un piccolo sogno, ma ve lo racconto così come sogno, perché stiamo iniziando una collaborazione con un gruppo inglese, dei colleghi inglesi di Bristol, che hanno realizzato invece delle batterie che funzionano a batteri, quindi veramente mangiano materiale organico e producono energia. Quello avrebbe una grandissima autonomia a quel punto. Sì. sì, perché mare e materiale organico ce n'è. Quanto ne vuole. Per far capire l'importanza di questo progetto, vogliamo ricordare che proprio recentemente siete stati a San Diego in un grosso congresso mondiale sull'oceanografia e Poseidrone è stato uno dei protagonisti, ha riscosso un successo mondiale. Perché? Perché è un'eccellenza italiana e forse nessuno non aveva pensato. Non ci sono altre robe non così. È proprio peculiare. No, siamo stati molto, molto, molto contenti, orgogliosi di questo. Quello era un po' il tempio sacro delle tecnologie per il mare, quindi anche della robotica marina. Noi siamo andati a proporre un'idea totalmente innovativa, cioè questa idea di usare materiali soft, robot soft, quindi temevamo insomma di essere esclusi e invece sono stati accettati i paper che abbiamo proposto, addirittura 3 paper, quindi poi ci sono state le presentazioni che sono state molto apprezzate invece. Quindi questo per noi rappresenta un buon confronto. Beh, un grande stimolo, certo. Sì. Senta, un'applicazione tanto astuta quanto sleale sarebbe quella di fargli pescare i polpi, quelli veri. Si presenta davanti. Federico, stavo per chiedergli se era buono con le patate. E a quel punto però certo quando devi riuscire quando emergono a cuocere quello vero, perché se gli cuoci questo che magari costa tantissimo. Questo non è buono con le patate, no, Laschi. Credo di no. No, direi di no. Senta, insomma, ma non fa Laschi, malissimo, il sifone, però eviterei. Ma ne avete uno, oppure ce ne sono due? È preziosissimo, ne avete uno solo? Per ora il prototipo Poseidrone è uno solo. Abbiamo vari prototipi dal progetto Octopus, via che si evolve rimangono i prototipi vecchi. Però diciamo il Poseidrone per il momento è uno. Però questo è anche un altro aspetto da mettere in evidenza sul discorso magari proprio applicazione. Cioè sono un prototipo, una tecnologia anche a basso costo. Quindi l'idea del robot non è tanto, anche Rafa, facciamo il caso con cose, sostituire un solo mozzatore, ma in realtà io questi robot ne posso fare tanti, mandare tanti, se si perdono non è questa sì, perdita. L'idea è che siano molto accessibili economicamente, quindi con efficienza applicativa forte. Non certo. È banale. Certo. Ne posso mandare tanti, per cui massimizzo le probabilità anche di durante una ricerca di trovare. Allora in bocca al lupo, Laschi, ci sentiamo quando invierete gli eserciti di polpi ad esplorare i nostri fondali. Qualcuno ve li pesca, attenzione. Cioè, sì, questo l'abbiamo messo in conto. Qualcuno gli spara. Va bene. Grazie. Buona serata. Arrivederci, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si sta concludendo proprio in questo weekend la settimana europea delle biotecnologie e ne abbiamo già parlato in onda la scorsa settimana per promuoverla. È una settimana che si svolge in tutta Europa ed è dedicata a promuovere l'informazione su questo vastissimo campo di ricerca. Non si può forse nemmeno più parlare di campo di ricerca, perché le biotecnologie attraversano quasi tutte le attività, sia di base, di ricerca di base, che ricerca applicata in campo appunto scientifico e tecnologico. Andiamo ovviamente dal settore biomedico, poi c'è tutta l'area delle biotecnologie applicate all'agricoltura, agli alimenti, ma stanno avanzando le biotecnologie anche nel campo, per esempio, della scienza dei materiali, perché stiamo scoprendo che ovviamente lì non si maneggia la vita agli animali o anche la vita dei batteri, insomma, e comunque si ha a che fare, come dire, con delle molecole, con delle strutture che hanno quella complessità, appunto, delle strutture vitali, ma che possono essere utili per lavorare su delle superfici per ottenere certi effetti, certe protezioni. E poi c'è addirittura un orizzonte strano e molto suggestivo, ed è quello che nella computer science si incomincia a indagare come un settore nel quale si è capito che le strutture di calcolo che potrebbero emergere utilizzando non i chip, non il silicone e derivati, ma invece delle molecole vitali, ebbene queste molecole potrebbero avere una capacità di calcolo estremamente elevata, molto più potente. Bene, c'è stata una conferenza di lancio di questa settimana, lunedì scorso, con tanti interventi. E io adesso vi propongo un'intervista con Chiara Tonelli dell'Università degli Studi di Milano. È una importante, grossa ricercatrice italiana nel campo dell'agricoltura cultura dell'alimentazione, e però a lei io ho voluto porre una domanda molto precisa, perché nelle biotecnologie ci sono anche delle ricerche che sollevano dei dibattiti, e insomma, sentite. Io inizio ponendo subito un problema, un esempio di problema che senz'altro è molto percepito dal largo pubblico quando si inquieta rispetto all'utilizzo degli OGM. Allora, delle belle piante di grano turco, queste belle pannocchie color oro, sono tipicamente aggredite da degli insetti che in un raccolto ne distruggono tanti. Si lavora sul grano turco, si riesce a ottenere una specie modificata che quegli insetti non li attira più. Ma dove vanno a finire questi insetti? In che modo si riversano in altre parti dell'ambiente? Questa cosa, no? Per esempio, di una specie che viene spostata, che viene aggredita nel suo comportamento naturale, è qualcosa che, quando si parla in generale di ecologia, effettivamente viene tirata fuori come un esempio di pericolo, no? Ci sono stati casi, ce n'è uno famosissimo in Australia, di questo gruppo di agricoltori che avevano in una loro piccola zona un grosso problema di zanzare, di insetti, erano andati a prendere 30 rane alle Hawaii, e adesso in Australia la presenza delle rane è un problema, si calcola tra i 7 e i 10 milioni, c'è addirittura caccia libera, no? E invece perché, secondo voi, non ci sono problemi? Non ci sono problemi perché, prima di tutto, i contadini che utilizzano questo mais OGM BT, che è resistente agli insetti, devono fare seminare delle zone di nicchia di mais normale, in modo che gli insetti possono in quelle zone riprodursi senza problemi. Quindi il 90-95% del campo è salvato dalla infestazione di questi insetti, mentre c'è una piccola quota che viene mantenuta proprio come reservoir, come nicchia per la loro riproduzione. Quindi non andiamo ad eliminare queste specie. La seconda cosa che si è osservato è che, essendo queste piante resistenti agli insetti, non vengono spruzzati, come vengono invece utilizzati, i pesticidi che vengono utilizzati sulle altre coltivazioni. E questi pesticidi non solo influenzano e quindi fanno morire questi insetti, ma anche tutta una serie di insetti non target che di solito non hanno nulla a che fare con il mais, ma che comunque la farfalla che si posa, il famoso caso della farfalla monarca, si è visto che in queste coltivazioni era molto più presente, proprio perché non trovava insetticidi nei dintorni. E so che voi anche dite: questa preoccupazione, umanamente, psicologicamente comprensibile, però è un po' bipolare, usando questo termine mediato dalla psicanalisi. Certe cose le vede, certe altre no. Sì, è vero, cioè uno fa tante storie, però poi dopo sul balcone di casa utilizza un sacco di insetticidi, e poi in Italia, ad esempio, gli OGM non si possono coltivare. Però in Italia gli OGM si importano come sementi, perché quasi tutta la soia che viene importata per gli allevamenti degli animali è OGM, perché ormai più dell'80% della soia coltivata al mondo è OGM. Quindi c'è un po' di questa schizofrenia, cioè qui non si fa, però la si importa. Oppure ci preoccupiamo che scompaia l'insetto del grano turco, ma per esempio se parliamo di virus, no. Ah sì, certo, beh, quando sono nati i vaccini nessuno si è mai posto il problema cosa succede del virus della polio piuttosto che quello del vaiolo, cioè meno male che non esistono più. E non esistono più anche da parecchio tempo, la polio insomma ormai sono una quarantina d'anni, ma il vaiolo ancora prima, insomma avremmo dovuto misurare degli effetti. Sì, poi il discorso è che bisogna ovviamente salvaguardare l'ambiente, la natura, però non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che tutte le specie indistintamente devono essere salvaguardate, anche perché nel processo naturale normalmente anche nel passato c'erano specie che si estinguevano ed altre nuove che venivano così, che comparivano, quindi è un processo naturale di estinzione. Lei è una ricercatrice italiana impegnata ad alto livello in questo campo delle biotecnologie applicate all'agricoltura, agli alimenti, e naturalmente agricoltura e alimenti sono i settori più sensibili per il largo pubblico. Però le chiedo, proprio così come dichiarazione anche di principio, c'è l'idea che il ricercatore molto specializzato vada solo sulle sue cose, non si guardi mai intorno, ma invece questa attenzione agli equilibri ambientali in genere, e quindi con una ricerca che fa controlli, esiste, è nel vostro DNA come ricercatori? Ma certo, è quello, quando uno fa ricerca lo fa perché pensa di cercare delle cose che possano migliorare la qualità della vita e la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ad esempio, una delle mie ricerche è quello di cercare di sviluppare delle piante che siano in grado di crescere risparmiando acqua, cioè che utilizzino meno acqua. Sappiamo che l'acqua è un bene preziosissimo, ma è un bene finito. Quindi quello che abbiamo visto è che basta modificare un gene che controlla l'apertura e chiusura degli stomi, cioè gli stomi sono come i pori che noi abbiamo sulla pelle. Sulle foglie ci sono questi pori che vengono chiusi quando la pianta è in carenza idrica e vengono aperti in condizioni normali. Quello che abbiamo visto è che basta chiudere un pochino gli stomi, però non chiusi completamente, perché devono essere aperti in modo tale che possa entrare l'anidride carbonica e quindi possa avvenire la fotosintesi, però essendo un po' più chiusi evaporano, traspirano un po' di meno, e quindi abbiamo visto che questo può portare a un risparmio almeno del 30% di acqua. Questo può servire quindi non solo per le piante sul balcone, dove uno può andare via per il weekend e tornare che la pianta non è secca, ma serve soprattutto in agricoltura. E forse in conclusione bisognerebbe anche sottolineare come non è vero che l'ingegneria genetica è una cosa recentissima, nel senso che come scienza sofisticata lo è senz'altro, ma insomma l'umanità ha pasticciato con la genetica per millenni. Beh, tutto il processo di domesticazione che si è basato sulla selezione, inconsciamente venivano selezionati piante che avevano determinati geni piuttosto che altri. Noi stessi siamo l'esito di una selezione, no? Se no saremmo ancora a livello di batteri, cioè l'uomo si è evoluto, e l'evoluzione si basa sulla mutazione, cioè i geni che vengono modificati e poi vengono selezionati. La differenza, se noi andiamo a guardare quello che era un pomodoro selvatico da cui ancestrale rispetto al pomodoro di adesso, c'è una diversità enorme. Prima era una pallina da un sapore tremendo. Adesso il pomodoro è un bel frutto, no? E che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che alcuni geni spontaneamente si sono modificati, sono stati selezionati. Ora, quello che noi diciamo è che se vogliamo migliorare per cercare di fare delle piante che siano più robuste, più resistenti al freddo, più resistenti alla siccità, più resistenti al caldo, che facciano dei prodotti che abbiano una shelf life, cioè che durino un po' di più, e prodotti ad esempio più nutrienti e così via, possiamo... Prima di tutto dobbiamo capire quali sono i geni coinvolti in questi processi, e poi una volta capiti li possiamo modificare. Ora, come questo avviene? O cercando questi geni già modificati in natura e poi facendo l'incrocio, oppure modificandoli in laboratorio e poi reinserendoli. A volte basta estrarre dalla stessa pianta un gene e poi spegnerlo o attivarlo un po' di più, come mettere un potenziometro, no? In casa noi abbiamo delle lampadine dove mettiamo il potenziometro, che possiamo accendere di più o spegnere di più. A volte si è visto che basta appunto cambiare questo interruttore e far esprimere un gene di più o di meno per ottenere il carattere desiderato. Ritornando appunto alla genetica che si faceva non nei laboratori, ma mischiando le piante, facendo ibridazioni, è vero quello che voi sostenete, cioè che in fondo adesso si fanno le stesse cose ma con molta più accuratezza, e una volta si andava tremendamente a caso. Certo, se io faccio un incrocio fra una pianta coltivata e una specie selvatica, io unisco due genomi che sono abbastanza diversi, e soprattutto incrociandoli io non so che cosa metto dentro, che tipo di geni metto dentro. Mentre se io dalla pianta selvatica prendo un solo gene e questo lo studio e poi lo inserisco a ragion veduta, ho tutto sotto controllo. Quindi da un mio punto di vista di genetista, l'ingegneria genetica permette di fare un miglioramento preciso su un determinato carattere utilizzando un gene che si conosce in tutti i dettagli, mentre al limite l'incrocio può essere una cosa che uno non riesce a tenere sotto controllo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo entrati nell'era delle application, questi piccoli software che ci scarichiamo sullo smartphone e che possono fare le cose più diverse. Bene, Mark Serono, la grande azienda farmaceutica, ha sovvenzionato una ricerca all'Istituto dei Tumori di Milano, una ricerca per produrre un'app che deve essere usata in quei casi in cui, più diversi, per malattie gravi ma anche per incidenti, la nostra voce può essere fortemente compromessa. Ne ho parlato con la dottoressa Lisa Licitra, appunto dell'Istituto dei Tumori, che con il suo team ha messo a punto questa app. La cosa più importante, mi sembra da dire all'inizio, dottoressa Licitra, è che la costruzione dei contenuti di questa app nasce da una relazione forte con i pazienti, cioè non è che avete costruito voi le cose, avete interrogato insomma i pazienti per capire quali sono le esigenze più forti. Esattamente, abbiamo ben presente quanto siano le diverse e potenzialmente difformi le esigenze dei pazienti, proprio perché conosciamo la malattia e i nostri pazienti, quindi non era per forza, era necessario ricorrere a loro per avere un aiuto e per strutturare le cose in modo più chiaro e più semplice possibile e soprattutto più esaustivo possibile a seconda delle varie situazioni in cui si venissero a trovare. Ci sono in giro dei prodotti, dei sistemi, insomma degli strumenti che consentono di scrivere con una tastiera, appare una scritta sul video e lo strumento riproduce poi in audio quello che si è scritto. La differenza, lei l'ha sottolineato con forza, la differenza tra questa procedura di scrittura seguita dall'audio e la possibilità di avere invece già tante frasi, ricordiamo che qui ci sono già 150 comunicazioni predisposte e poi diremo qualcosa di più anche su come si possono aggiungere, però insomma questa differenza col fatto di avere tante frasi già pronte è fondamentale dal punto di vista psicologico per il paziente. Penso di sì, nel senso che sicuramente il dover scrivere chiede del tempo, la relazione umana oggi richiede velocità, la relazione nel senso la buona relazione è quella che si costruisce in una domanda, in una risposta in tempi giusti, questo anche per favorire la relazione, perché se ci metto troppo tempo a chiedere una cosa naturalmente non ho altro tempo, spreco il mio tempo nelle richieste rispetto ad aggiungerne una via l'altra. Qui l'idea non sono tanto le frasi ma quanto le icone che rappresentano delle situazioni. E le frasi associate a queste icone richiamano immediatamente a condizioni, problemi, disturbi, richiamare l'attenzione su alcune situazioni tipiche e di lì diciamo la necessità di avere i pazienti dalla nostra parte per poter essere efficaci, rapidi e concisi. E c'è da aggiungere che se il paziente vuole aumentare queste icone con delle proprie scelte di comunicazione, questo è possibile, il sistema lo consente. Assolutamente, non solo è possibile aggiungere delle icone, tipicamente una fotografia ad esempio di un familiare, qualora poi venisse pigiata questa icona potrebbe venire fuori la frase, potrebbe essere detta la frase mi chiami mio marito. Diciamo il sistema consente anche di scrivere, cioè non abbiamo voluto abbandonare l'idea originale di scrivere e di riprodurre quanto scritto, ma è una delle funzioni all'interno della app. E direi l'altra cosa interessante forse quello che appare sulla destra, i sì, no, i non so, è un campanello. Il campanello significa ho bisogno di te, tipicamente farsi sentire, tipicamente il paziente senza voce batte le mani, fa così per attirare l'attenzione, non sempre questo è, diciamo, è facile da sentire, da capire, mentre un campanello è chiaramente intuibile. Proviamo a vedere allora una di queste icone, proviamo a incominciare anche dal campanello. Immaginiamo che non mi sentano, non è stato sufficiente, posso amplificare schiacciando amplificazione, cosa che non facciamo in questo momento, ma posso aumentare il volume del campanello, ma posso anche farlo diminuirlo, aumentare e diminuire il volume del campanello, posso ripetere la chiamata. se fosse necessario, non mi hanno sentito. Ritorniamo alla home page, vediamo per esempio questo che riguarda le emozioni. È un settore secondo me molto, molto interessante, molto carino, se volete emozionante, come le emozioni che esprime. I pazienti, soprattutto in momenti difficili, fanno un po' fatica a esprimere le loro emozioni. Sicuramente non sarà facile scrivere "ho paura" e poi sentirlo ripetere da un sintetizzatore vocale. Semplicemente il fatto di poter di poterlo schiacciare e avere immediatamente rende la cosa più possibile. Considerate anche che questi malati hanno spesso dolore, quindi non riescono a deglutire, eccetera. Quindi ci sono anche altre emozioni come sono stufa, quante volte sono stanca, sicuramente quante volte i pazienti dicono, oppure ce lo fanno capire, insomma fanno un po' fatica a dirlo. Sono tranquilla. Questa è una bella notizia. Ritorniamo ancora un po' all'home page, vediamo ambiente, poi dopo certo ce ne sono alcune che sono assolutamente necessarie, come dolore, SOS a tavola, però vediamo quelle magari meno scontate, per esempio silenzio. Vorrei silenzio. Quante volte magari non ci sentiamo bene e vogliamo un po' di silenzio intorno a noi, non vogliamo confusione. Vorrei la porta aperta o chiusa. Richiamare la porta o aperta o chiusa. La porta è o aperta o chiusa, quindi nel momento in cui uno schiaccia la porta, evidentemente si deve cambiare la posizione della porta. Direi in conclusione questo, cioè allora l'app è scaricabile gratuitamente su uno smartphone, su un tablet. Ricordiamo che è stata appunto promossa e finanziata questa ricerca e questa realizzazione da Mark Serono. Ci si può chiedere se un'applicazione di questo genere possa avere anche una sua declinazione in più lingue. L'idea, l'obiettivo sarebbe questo all'interno della campagna europea Make Sense Campaign, che appunto si apre oggi a livello europeo, ha destato molto interesse negli altri paesi, quindi sicuramente c'è già l'idea di tradurla in diverse lingue e speriamo che questo succeda tra poco. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Federico, abbiamo pochissimi minuti e ne approfitto per raccontare a te gli ascoltatori di una ricerca fatta all'Università di Newcastle nel Regno Unito, e il titolo potrebbe essere "Anche le balene si abbronzano". E sì, un gruppo di ricercatori si è preso la briga di studiare l'effetto dei raggi ultravioletti sull'epidermide dei grossi cetacei. Per la precisione, l'analisi è stata condotta su 3 specie distinte abituate a compiere lunghi spostamenti migratori: le balenottere comuni, i capodogli e le balenottere azzurre. Quest'ultime sarebbero quelle più delicate, cioè quelle dalla pelle più chiara. Tutto nasce dalla segnalazione di un gruppo di biologi marini messicani che nei mesi più caldi dell'anno hanno osservato delle vesciche sospette sulla pelle di un numero sempre maggiore di animali, e quindi i colleghi britannici hanno deciso di studiare questi animali. Infatti le balenottere azzurre sono quelle che possiedono la colorazione più pallida della pelle, e nel periodo estivo, quando i raggi UV sono più intensi, loro migrano dal mar glaciale artico fino alle coste del Messico. La loro pelle si scurisce per effetto della melanina, proprio come accade a noi quando prendiamo la tintarella sulla spiaggia. Però oltre all'imbrunimento del colore della pelle, l'esposizione continua ai raggi ultravioletti produrrebbe danni al DNA mitocondriale, esattamente come ahimè accade a noi umani quando ci scottiamo. Queste conseguenze su capodogli e balenottere comuni sono meno acute perché hanno la pelle più scura, e i capodogli tra l'altro trascorrono fino a 6 ore consecutive sul pelo dell'acqua, e per proteggersi dai raggi UV hanno sviluppato una strategia molto particolare, simile a quella di noi umani, legata alle proteine HSP70, dette anche proteine da shock termico. Queste proteine aiutano la cellula a proteggersi dai fattori di stress, come il calore appunto. Perché è importante monitorarle? Certo, per capire i processi cellulari dei mammiferi e soprattutto per comprendere se anche nei cetacei, come negli umani, le prolungate esposizioni al sole possono provocare l'insorgenza di melanomi. E poi il monitoraggio di questi animali longevi e molto sensibili ai cambiamenti ci forniscono sicuramente molte informazioni relative anche allo stato dei nostri oceani. Concludo velocemente facendo una segnalazione invece per chi lavora nel settore del legno. Avete in mente un'idea che potrebbe rivoluzionare in modo diretto o indiretto il modo in cui sfruttiamo il legno, il modo in cui lo lavoriamo o lo trasformiamo? Allora potete partecipare alla Call for Ideas promossa da Federlegno, la Federazione Italiana delle Industrie del Legno Arredo. Possono partecipare tutti, imprenditori, professionisti, aziende, enti di ricerca e anche start-up in erba. In palio non ci sono denari, ma importanti e interessanti possibilità professionali. In primo luogo, rispondendo alla call, sarà possibile prendere parte al prossimo Forum dell'Innovazione, organizzato il 21 novembre al Parco Tecnologico di Chilometro Rosso a Bergamo. E lì si potranno incontrare professionisti e imprenditori del settore. Cioè, la vostra idea sarà presentata a professionisti nel network di Federlegno Arredo, cioè un arcipelago di oltre 2700 aziende che spaziano dall'arredamento di casa e ufficio all'illuminazione, passando per gli imballaggi. E se siete interessati potete visitare il sito federlegnoarredo.it e proporre la vostra idea. Possono essere selezionati anche progetti legati a marketing e a processi di lavorazione, purché applicabili al settore del legno, ovviamente. La call si chiude tra pochissimi giorni, quindi se volete sfruttare l'opportunità dovete farlo subito. E con questo tipo di informazioni che ci piace sempre dare, insomma, sono opportunità di lavoro, chiudiamo. Tu ci sei la prossima settimana? Sì, sei mi qua. Raccomando, alle 21, non alle dimenticatelo. Alle 21, non siamo più alle 20, alle 21. E poi siamo in replica alle 24 la domenica. La domenica. Buona settimana a tutti. E a tutte.